lo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità, felicità. È un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità. Nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa. Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa.